24 di Giovanni Minoli. A chi dice ma state facendo troppo veloce, ora non per cattiveria, ma questa riforma è attesa da 70 anni. Ma sono ancora qua. Ci vuole abilità. Sono stati invitati in audizione in una prima fase esperti costituzionalisti. Sono stati auditi 32 costituzionalisti. Tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Gli 83 milioni di emendamenti presentati da Calderoli francamente mi sembrano una caricatura della democrazia. Ma sono qua. Ci sono sempre stati i numeri, io sono molto tranquilla, ci saranno anche questa volta. Non c'è niente da cambiare. Se io da solo riesco a bloccare il Parlamento, o siete scarsi voi, o c'è qualcosa che non funziona nel regolamento. La riforma del Senato passa, per cui cioè, questo problema proprio non esiste, perché la riforma del Senato passa. Io sono ancora qua. Onorevole Pierluigi Bersani, buongiorno. Allora ha ragione la Boschi, chi ha vinto? Passa. Ma cerchiamo di ragionare un po', non siamo mica bambini, no? Che deve vedere, chi vince e chi perde. Beh, conta però. Bisogna fare un discorso serio, insomma, sono stati fatti dei passi avanti, perché... Ma che cosa avete ottenuto veramente in cambio? Abbiamo ottenuto una riduzione del danno molto significativa, del danno che deriva dal combinazione fra legge elettorale e nuove norme costituzionali. Quindi adesso abbiamo un Senato elettivo che ha alcune funzioni di garanzia rafforzate, e adesso bisogna andare avanti perché c'è ancora qualcosa da migliorare. Quindi non è l'accordo non è definitivo? No, l'accordo su quel punto è definitivo, naturalmente poi ha delle conseguenze, bisogna cambiare le norme transitorie. E in quello spirito di un accordo bisogna lavorare ancora, per esempio, sull'elezione del Presidente della Repubblica, per esempio, aggiungo io, anche sulla distribuzione di funzioni, per dir così, fra Stato e Regioni, che a mio giudizio va perfezionato. No? E quindi adesso c'è ancora da lavorare, però un passo è stato fatto, perché un conto è nominarli a tavolino i senatori, un conto è eleggerli da parte degli elettori. Se non si apprezza questa differenza, io non so come dire. Certo, però a molti commentatori non è chiaro cosa c'è scritto esattamente nell'accordo. Certo, l'accordo è un emendamento. È perché sembra scritto in un modo molto ambiguo. No, che ambiguo. No. Diciamo che è scritto in un modo un po' bizantino e contorto, sempre dovuti applicare a un comma di un articolo 5, perché non è passata l'idea di mettere mano all'articolo 2 in modo, e quindi è un po' bizantino, ma quando in un testo c'è scritto in conformità alla scelta degli elettori c'è solo da applicarlo. Senta, quindi è soddisfatto, di questo primo passo. Sì, il primo passo sono soddisfatto, perché si continua a ragionare in una chiave di buon senso. Senta, ma non è che molto semplicemente Renzi ha detto riforma o elezioni e molti hanno avuto paura nel PD? No, questi sono dietrologie giornalistiche. Perché Corsini o Mucchetti o Chitti, cioè, devono aver paura? Ma di che cosa? Una vita, far politica. Senta, allora, ma non credo che ci sia questo. Senta, ma allora adesso la ditta e il PD sono tornati a essere la stessa cosa, diciamo? No, adesso non so, ogni giorno ha la sua pena. Questa è una pena. Si può dire che la ditta e il PD sono la stessa cosa? Non ancora per me, perché per esempio la pena di oggi è questa. Vedo l'onorevole Verdini, senatore Verdini e compagnia, con gli amici di Cosentino e compagnia, che stanno cercando di entrare nel giardino di casa nostra per fare la coalizione della nazione, il partito della nazione. Mi sembra che con la Boschi insomma ci sia stato un buon rapporto. Allora, siccome questo è un delirio trasformista, trasformista, un sì. delirio trasformista, mi aspetterei che dal Nazareno venisse una parola chiara su questo delirio trasformista, perché non vorrei che si sottovalutasse l'effetto che queste cose hanno sui nostri militanti, i nostri elettori, almeno su una parte di loro. Certo. Senta, ma lei si sente tradito dalla Finocchiaro? Ma no, ma non, io non uso parole del genere, tradimento. Vabbè. Ma a me basta che la gente sia convinta di quel che fa. E a lei è sembrata una trasformazione convinta quella della Finocchiaro? Ma devo partire da quel presupposto, no? Sì. Devo pensare? Finocchiaro ragiona con la sua testa. Naturalmente. Penso. Senta, onorevole Bersani, ma il compito di Grasso adesso sarà più facile? Ma diciamo così che Grasso va lasciato stare, cioè il presidente del Senato va lasciato stare. Io non mai però è in mezzo adesso. Adesso è in mezzo. Ma se la caverà se è in mezzo, perché l'uomo è un uomo di principi, e quindi io posso solo ribadire la stima per quella persona. Comunque, l'ha scelto lei, quindi c'è da immaginarlo. Dice che ha detto un capolavoro, forse lo dicevano ironicamente, io lo dico invece seriamente. Senta, ancora una cosa, onorevole Bersani, ma il monocameralismo nella democrazia governante non è una soluzione più efficiente per difendere in realtà quello che si può della democrazia? Ma guardi, allora si può pensarla così. Io anche se fosse il monocameralismo, dovrebbe andare a discutere come funziona. Naturalmente, no, questo sicuro. Cioè, con le formule solo può andare bene un bicameralismo fatto bene, andare male un monocameralismo fatto male. Bisogna far per bene e funzionano tutte e due. Se si fa per bene e non si fanno delle guerre mondiali su delle cose di buon senso. Senta, ma abolire invece il Senato, invece di questo pasticcio complicato che come dire affiora lentamente, non sarebbe stato meglio? Ma guardi, a poco spero di poter dire no, non è così. Certamente in prima battuta qualche dubbio veniva, sì. E noi, per capire se è meglio Senato sì o Senato no, andremo dentro la notizia. Mix 24. Dentro la notizia. Era meglio abolire del tutto il Senato? Questa è la nostra domanda di oggi. Intervenite con i vostri dubbi, se li avete, domande di chiarimento, opinioni, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. La battaglia comunque è cominciata. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e soprattutto quello del Senato Grasso, l'abbiamo sentito, giocano un ruolo di primissimo piano. Anche Giorgio Napolitano ha fatto sentire la sua voce. Matteo Renzi ha deciso però di rompere gli indugi e ha mandato in aula il testo della riforma, sostanzialmente o riforma o elezione, ha detto. Ma il Senato è così importante, vale la pena che l'Italia si blocchi su questo tema? Con Mario Secchi e Pietrangelo Buttafuoco naturalmente entriamo dentro questo interrogativo. Mario, ma brevemente, in modo chiaro e semplice, mi riassumi le caratteristiche di questo Senato? Allora, è molto semplice, sono 315 parlamentari, ha una struttura molto complessa il Senato, ha un presidente, un consiglio di presidenza, l'assemblea, commissioni, giunte, vari uffici specializzati e soprattutto un regolamento interno che è sovrano e fa del Senato, come la Camera, un soggetto dotato di totale autonomia. Molti si dicono, ma cambiamo le regole, ma le deve cambiare il Senato stesso. Ha un bilancio interno il cui costo per il 2015 è di 540 milioni di euro, quindi molti soldi. Tanti. Il personale dipendente costa 98 milioni, i senatori e i gruppi parlamentari 100 milioni. Nel costo totale della politica è un pezzo importante, la politica in Italia costa 2 miliardi e mezzo all'anno. Ecco, sono numeri che sono numeri impressionanti. Comunque, abolire il Senato, quindi l'hai detto, vuol dire risparmiare dei bei quattrini e molto. Poi rendere la democrazia una democrazia più governante, cioè dare certo. più velocità alle decisioni. Ecco, ricordo, se avete delle domande, 800 24 0024 numero verde, l'SMS 349 238 6666. Allora Mario, questa situazione, tu sei favorevole o no alla riforma di Renzi? Favorevole alla riforma, ma in realtà io il Senato l'avrei abolito del tutto. L'avresti abolito del tutto? Del tutto, punto. Sì. Noi abbiamo il telefono Giovanni Sartori, che è un politologo importante che si è occupato di questi temi. Come la trova questa riforma del Senato, professore? Ma è tutto orribile. Tutta orribile, perché? Non c'è un solo organo al suo posto. Renzi è Presidente del Consiglio per via di che cosa? Di un sondaggio d'opinione. Vabbè, come lo sono stato gli ultimi tre Presidenti del Consiglio, però. Anche Letta e anche Monti. Se vuole che le dica bene del passato. No. Mi parla di Renzi, le dico certo. Renzi. Ma della riforma Renzi è stato buscantato perché non solo non ha permesso nessun controllo, non c'è stata nessuna verifica, non erano aperte, quindi le peggiori condizioni possibili per creare per un referendum o per un'indagine credibile. Quindi la riforma del Senato non le piace? Come l'ha fatta? No, tra l'altro non è la riforma del Senato. Lui ha vinto le elezioni come segretario del partito, punto e basta. Poi ha vinto le elezioni come europeo, punto e basta. Ma non c'è stato niente il Senato. Il Senato è un'altra partita. Ma secondo lei è meglio abolirlo il Senato? Deve essere un sistema monocamerale o bicamerale? Io lo voglio a questa condizione, che ogni partito si presenti al Senato da solo, senza coalizione. Poi ho scritto diversi articoli, certo, nel quale spiego meglio. Ma voglio dire, il punto è che se si concentrano le coalizioni non c'è barba di legge elettorale che controlli o disciplini o renda agibile un Senato. Ma secondo lei è meglio il bicameralismo o il monocameralismo? Ma senta, buon monocameralismo è meglio di un cattivo bicameralismo. Va bene. Senta, quindi per chiudere, il suo giudizio complessivo su Renzi è negativo, quindi, se ho capito bene. Il giudizio complessivo su Renzi è che è tutto fuori posto. Lui è in posizioni che non ha guadagnato, almeno elettoralmente. Se poi vince lo stesso, la gente glielo consente, questo è colpa vostra, non mia. (ride) 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ma Pietrangelo, sei d'accordo con Sartori? Stamattina ho preso in mano le pagine immortali di Ettore Paratore e lì sono andata a rispolverare la distinzione fra auctoritas e potestas, e quindi, per dirla grossolanamente, tra autorità e potere, laddove si spiega che l'autorità richiede un fasto, mentre invece il potere ha il lusso. In un certo senso il fasto è come la cravatta o le scarpe pulite di papà rispetto alla sciatteria, e invece il lusso è qualcosa che poi degenera. Allora, se il Senato ha questa impronta romana, e le pagine di Paratore mi hanno aiutato a capire che cosa è effettivamente Matteo Renzi, e quindi rispondo: certo, sono d'accordo col professor Sartori, e vi propongo, e propongo agli ascoltatori, a voi, in religioso silenzio, l'ascolto per tramite di Gigi Proietti di chi è veramente Matteo Renzi. Non certamente Bettino Craxi, non certamente un nuovo Berlusconi, né tantomeno colui che disse: avrei potuto fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco per i miei manipoli. Lui è Tarquinio il Superbo. Ascoltate. Sono luoghi comuni. Come l'altro luogo comune secondo cui io resterò famoso nella storia come il tiranno. Ma perché tiranno? Governo senza voto de popolo, perché io er popolo nulo so porto. Vabbè, io l'opposizione non la tollerò. E allora che fo? ammazzo tutti i senatori dell'opposizione. Vabbè, vabbè, tratto Roma come mio possedimento personale. Vabbè, vabbè, non sono il primo e non sarò manco l'ultimo. Vabbè, vabbè, vabbè, faccio quello che mi pare a me. Vabbè, vabbè, vabbè, Roma sta diventando un bagno di sangue. Vabbè, vabbè, ma perché tiranno? Questo non lo capisco. Mario, certo che riuscire a strapparci una risata così intensa e forte su un tema così, ma ci vuole un talento, ecco. Ma per tornare al, purtroppo, al prosaico e quindi all'articolo 2 della riforma, sì, il punto esatto qual è? Allora, una parte nobile è divisa in due parti. La prima parte è nobile e riguarda la rappresentanza. E in realtà non si risolve, perché l'Italicum non risolve il problema dei nominati, anzi, resistono tuttora. E in realtà il Senato quindi diventa, come dire, il centro di tutto con questa legge elettorale anche. Allora, siccome negli anni passati era diventata, negli anni di berlusconismo e antiberlusconismo, l'arena dei big, il teatro della battaglia, dei ribaltoni e della compensazione politica, ecco che c'è anche chi ovviamente non vuole che sia né riformato né tantomeno abolito, e questo è il motivo meno nobile. Sono nate cose abbastanza particolari nel Senato a proposito di ribaltoni. Senatori favorevoli 156, senatori contrari 161, senatori no, per favore. Sergio De Gregorio chiede perdono all'ex presidente del Consiglio. Però di altra cosa. Io avevo un dovere nei confronti dei miei elettori, gli ho procurato un percorso di sofferenza con le mie decisioni, con il respingimento di molti atti del suo governo. Gli ho fatto quasi da stalker. Avevo delle capacità. Li ho messi al servizio dell'uomo sbagliato, che ha compulsato i miei comportamenti e li ha un po' teleguidati. Io però ho la responsabilità di essermi fatto teleguidare in questi comportamenti e di accettare un patto scellerato che non dovevo accettare. Insomma, il Senato in questi ultimi anni è stato anche questo. Io non vorrei aggiungere altro, mi pare tutto molto chiaro, no? Era un mercato delle vacche, la transumanza, il succo, il gran bazar, chiamatelo come volete. Ma perché volete. Solo il Senato più della Camera? Perché il Senato è un equilibrio instabile, la Camera, avendo applicato il premio di maggioranza, c'è chi governa. Ecco. La certezza. E fin qui è la situazione, diciamo, dal punto di vista tecnico, ma la partita è ovvio, è tutta politica, è la politica, come diceva Rino Formica in una frase passata alla storia delle cronache parlamentari. Secondo Formica la politica è sangue, merda, è una frase forte. Pietrangelo, ma davvero ancora così? È così, è certo, perché la politica, a maggior ragione poi in un ambito quale quello della rappresentanza, si porta dentro i territori. Io mi ricordo che stazionavo spesso davanti al Senato per fare il mio lavoro di cronista e mi capitava di incontrare un terzetto meraviglioso, a dir poco sublime, perché apriva pagine che non erano solo di cronaca ma di letteratura. Incontravo Totò Cuffaro con Mirello Crisafulli e con il senatore d'accompagno che completava questa bella opera, Firrarello, ed era uno spettacolo meraviglioso. Io mi ricordo che mi ispirarono anche un pezzo dal titolo Due panzazze a Kinshasa, il viaggio in Congo. E quindi era quest'idea del Senato che si incarnava proprio, li guardavo e mi sembrava una carta geografica, li guardavo e riconoscevo proprio tutti i meccanismi, le transumanze, i passaggi, si direbbe con una cattiva parola, le clientele. Tu mi hai fatto la domanda, ma è davvero ancora così? Giovanni, è stato sempre così? Vogliamo ascoltare la voce del Senato a Roma, quando Roma era tale, era l'urbe? Ascoltate. Colleghi membri del Senato romano, Uditemi, dovremo continuare a costruire un palazzo dopo l'altro per i ricchi o dovremo aspirare al molto più nobile proposito di fare case decenti per i poveri? Qual è il vostro voto? Fanculo ai poveri! Mario, senti, tu hai parlato del Senato come ruolo, sì, come ruolo dei ribaltoni, il ruolo, sì, che per la sua instabilità naturalmente si presta a questa sua interpretazione della politica. Ecco, ma hai dei numeri? Vabbè, dei dati, insomma. Allacciate le cinture, ma allora, dall'inizio della legislatura, questa è la 17ª, ad oggi, alla Camera hanno cambiato gruppo. Quanti? 108 deputati. 108 deputati? Sì. Al Senato, invece, sono stati... Quanti? 110. In tutto hanno cambiato squadra 218 parlamentari. Io penso che non ci sia altro da aggiungere. Beh, certo, è il bello della democrazia. E non è ancora finita la legislatura. No, non è finita. Siamo a metà. È il bello della democrazia questo. La democrazia non è mai stata bella, né tale mai sarà. Perché è sempre perfettibile. No, ma perché è proprio oclocrazia, che spolverando il dizionario Rocci significa il potere delle fogne. Ma io pensavo fosse il clock, il demos è quanto di più parente al demone. Ma detto ciò, nella cosiddetta riforma di Renzi, il vero meccanismo aberrante qual è? È quello di trasportare a Palazzo Madama dei rappresentanti che arrivano dalle regioni. Per esempio, nell'Assemblea regionale siciliana, che adesso si riunisce, saranno in 3, in 4 presenti ogni giorno. Dio ce ne scampi, arriveranno da lì. Ma io adesso mi prendo tanto spazio, non perché voglia parlare io, ma perché vi voglio presentare il migliore di questi senatori, e cioè, ascoltatelo, il grande Razzi. Quello che io faccio non ho mai pentito. Sono stato eletto senatore anche perché di fame si muore. Poi Crozza mi ha imitato e ora sono anche famoso. Caro amico, te lo dico da amico e fatti i cazzi tuoi. Vabbè, Pietrangelo stamattina in forma, conosce il mondo, forse un po' esagerato, però sentiamo un ex presidente del Senato, il senatore Renato Schifani, che oggi è capogruppo di Area Popolare. Senta, ma non era meglio abolirlo del tutto il Senato invece che fare questo suc di commercio sui dettagli? Guardi, la nostra posizione era diversa, abbiamo fatto un passo indietro per senso di responsabilità. Noi eravamo per un Senato elettivo, soltanto di 100 senatori e la riduzione contestuale di 100 consiglieri regionali in Italia, quindi costo zero. D'accordo, e abbiamo però fatto un passo indietro per non apparire coloro i quali non vogliono la riforma. Però è cambiato questo Senato comunque, in ogni caso, non dico che doveva essere abolito per forza, ma da un luogo nobile è diventato un po' un suc, effettivamente. Diciamo, da parte mia non vi è dubbio che c'è tanta tristezza, ecco, vivendo il Senato dal 96, ma l'evoluzione dei costumi della società vuole processi decisionali più immediati, più veloci, soprattutto la Camera che dà la fiducia. Ecco, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco Mario, per chiudere, tu fai sempre riferimento al sistema inglese, sì, però il sistema inglese in realtà è un sistema bicamerale, quindi proporre l'abolizione del Senato e fare riferimento al sistema inglese non è una contraddizione? Sì e no, nel senso, sì, formalmente è bicamerale, però poi sostanzialmente no, nel senso che la Camera dei Lord ha veramente poteri molto limitati, sai, 800 rappresentanti in un'assemblea politica non elettiva. Tagliando corto, mi viene in mente una battuta di Clement Attlee, che era il primo ministro inglese dell'Ottocento, che diceva questo della Camera dei Lord: è come un bicchiere di champagne lasciato aperto per 5 giorni. Visto che tra abolirlo e trovare un accordo, per il Senato ha vinto l'accordo, anche se io non ho capito bene bene su che cosa. Tu, Mario, hai una canzone per chiudere la puntata? Certamente, visto che gli arzilli onorevoli senatori dovranno andare presto in pensione, avranno molto tempo per divertirsi e ballare con il re del pop. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the former suit has got a lot of power, and they make me feel like, they make me feel like, minuti 18 secondi, tantissimi gli sms. Andrea da Prato dice: caro Pierluigi, lo stravolgimento della Costituzione non la perdono, molti elettori voteranno 5 Stelle, dipende da chi sono i senatori, scrive Carmen. Roma non ladrona, era meglio no senatori. Luca Fiocchi: Senato da abolire. Ma un tema così, in realtà, che sembra lontano, in realtà ha suscitato molto interesse. Abbiamo Stefano da Mantova. Stefano, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Minoli. Buongiorno. Allora, dica. Ma io vorrei esprimere il mio pensiero, il mio giudizio, in merito all'eliminazione, all'abolizione dei senatori. Una volta i senatori rappresentavano la parte saggia della politica. Nasce, voglio dire, non credo di dire una cosa che non, la gente non sappia, nasce da un periodo post-fascista, per cui la vabbè, quindi lei è per l'abolizione oppure no? Non ho capito. No, sono per l'abolizione, anche perché una volta, perché ha perso credibilità, è diventato un po' un suc, come dicevamo. Esattamente, molta credibilità. Oggi i senatori, voglio dire, senza nulla togliere a loro, ma rappresentano, sono una parte un po' così pittoresca, certe azioni, voglio dire, non vabbè, hanno senso. Insomma, comunque, quindi è contro questa mediazione che è stata fatta, era per l'abolizione. Sì, grazie. Sì, anche perché 600 persone penso che siano più che sufficienti come deputati a per rappresentare, in America sono 80 naturalmente. Grazie, grazie. Grazie a Stefano. Mario, ci sono altre reazioni? Tu hai visto? Io seguo un po' Twitter, lo sai. C'è Paolo Colombo che dice che bisogna abolirlo e stop. C'è uno che ci dice bentornati, che è Giuseppe Cossu, grazie. E qualcuno che dice, come Giorgio Mauro, al posto del Senato un bel museo della Repubblica. Ecco, ma la Catalogna non ci insegna niente, Pietrangelo? Dio ce ne scampi, perché se penso alla Sicilia che ritorno indipendente mi terrorizza. Scusa, non è la tua teoria che ho indipendente completamente o completamente dipendente? Sì, ma se già l'autonomia ha fatto danni, figurarsi poi abbandonati. Allora niente Catalogna, la Catalogna non è un esempio. No, dai. Vabbè. Scusami, insomma, sono fermo al giornale di ieri, al Fatto Quotidiano di ieri. Posso leggervi la vignetta di Mario Natangelo? Certo. E su Renzi a New York e i 7 inviati Rai. Che come i 7 nani sono, seguilo, zoomalo, applaudilo, illuminalo, riprendilo, esaltalo e infine il più importante, leccalo! Vabbè, però, cattivo, però è cattivo, cattivo. Chi, Natangelo è cattivo, no? No, però dicevo, però i 3 direttori dei giornali radio, dei telegiornali hanno scritto al Fatto, mi sembra, spiegando che essendoci anche il Papa in America, quello c'era, era il minimo per un po' di gente, ma di insomma gente, sono valutazioni così, insomma, così. Dai. Individuale. Allora, partiamo con la canzone di Pietrangelo di oggi, vediamo se è più buono. Sono cosa, Pietrangelo. E allora la Luna stanotte si è portata alla minima distanza dalla Terra, si è posizionata sul balcone del cielo e lì ha acceso tante più di sigarette, ha dato mille più di appuntamenti, ha bevuto mille più di caffè e solo baci di dolcezza e magia ha promesso ognuno in attesa di qualcuno. E la vera eclissi è adesso, perché non c'è nulla nel giorno, tutto è nella notte, nella versione di Renzo Arbore. Luna rossa, luna rossa, sono chiusa con la sera senza. Partito. Vabbè. Partito in quarta, Buttafuoco, non so come farò. Non c'è più la metropolitana, però tu mi hai promesso una prima bolla cattiva, hai detto. Certo. Vediamo. Senti la sigla. Oh, questo è un genio, eh. Questo è Bill Conti, che con questa roba ha vinto l'Oscar per la colonna sonora, senti. Lasciamola un po' sotto, ma grazie dalla regia. Allora, i titoli sulla morte di Ingrao, io ho visto dei titoli veramente interessanti, hanno tutti lo stesso aroma: Repubblica, addio a Pietro Ingrao, coscienza critica della sinistra, Corriere della Sera, il comunista che amava il dubbio e voleva la luna, La Stampa, addio Ingrao, lo sconfitto che voleva la luna, ridaie, Il Messaggero, addio Ingrao, voce eretica del comunismo, insomma, vabbè, coscienza, luna, eretico, sarà, però ascoltate qui, è il 1989. È dinanzi a questi singolari silenzi che allora sorge l'aspro interrogativo che il senso di questa operazione sia essenzialmente un altro, la dichiarazione di morte del comunismo. Bolognina, lui era contrario, voleva ancora il PC. In realtà Ingrao, ragazzi, non fu mai eretico, o meglio non lo fu come viene immaginato dalla geografia di massa e dai messaggi che ho visto in queste ore. La rivoluzione di Ingrao non è mai esistita, c'era parole, però poi era continuamente negata dai fatti. E sai, nasce da una famiglia borghese, comincia la vita politica occupandosi nel 34 partecipando ai editoriali della cultura, diventa bolscevico dopo i fatti di Spagna, sceglie sempre il partito, votò per l'espulsione degli ingraiani del manifesto, fu talmente dentro l'ingranaggio, poi si è pentito, si è anche pentito. Ho capito, poi diventa anche presidente della Camera. Nel 78, il giorno del rapimento di Moro, scrive un discorso e poi si autocensura. Insomma, ragazzi, critico, coscienza critica, Pietrangelo, che dici? Coscienza critica, poetica e l'Italia. Poetica, L'Italia poi benedice tutto. Sì. Però Dio ce ne scampi si fosse realizzato quello che voleva lui. Appunto. Tra l'altro. E vabbè, dai. Vabbè, c'è stato un cambio di vertice per chi segue le cose finanziarie. Al Monte dei Paschi di Siena è finita l'era di Alessandro Profumo. Però c'è anche un'altra notizia che riguarda il Monte dei Paschi. Ed è la notizia dell'archiviazione da parte della Procura di Firenze dell'avvocato Michele Briamonte, che all'epoca era indagato per insider trading. Fu sospeso dall'incarico nel board, sostituito proprio da Profumo nel Consiglio del Monte. L'accusa però, che ha fatto tanto rumore, è stata archiviata dal GIP di Firenze. Noi ne parliamo perché intorno a quell'accusa ruotò, per chi se lo ricorda, anche la misteriosa morte del responsabile delle pubbliche relazioni del Monte, Rossi. Una vicenda oscura su cui torneremo per cercare di raccontarla bene, adesso che è possibile, con lo stesso avvocato Briamonte nelle prossime settimane, per chiarire i contorni e definirne, se possibile, la responsabilità. Intanto andiamo avanti con i salamini. Il tema è la fuga. La fuga, cioè l'andarsene. Dalla fuga di Pescara, il re e il suo seguito all'alba del 9 settembre 1943, quando lasciano Roma per correre tra le braccia del nemico, abbandonando la patria, alla fuga dei moderati, oggi che vanno tutti tra le braccia di Matteo Renzi. Da inizio legislatura sono 40 i senatori e più di 30 i deputati che sono scappati da Forza Italia. E la corsa continua. ci sarà pure il libero mercato in tutto questo correre, è giusto, però niente Uber, niente noleggio con conducente, niente car sharing, piuttosto... Io la conosci in un taxi, in cammino al club. Il taxi, in 10 minuti ti porto da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi. Questo è il tema che Denis Verdini propone nel suo taxi. E ieri a San Lerno, alla festa di scelta civica, se Maria Elena Boschi veniva guardata giustamente come la Madonnina dei Miracoli, Denis Verdini invece, che è nume invincibile, era più o meno considerato così. Gigante, pensaci tu. Con piacere. E con piacere lui guardava questi poverini sciolti civici come già i peones di Forza Italia, che avevano mandato a memoria il vademecum di sopravvivenza chiamato la tela di ragno di Denis Verdini, e perciò nel delirio trasformista, per dirla con Bersani quando ha conversato con te Giovanni, tutti quei poverini guardavano a Denis, e il concetto è questo: io sono un taxi che porta Berlusconi a Matteo, così al potere altri 10 anni. Altro che un attimo. Prima c'era Silvio, ora c'è Matteo. Aiuto il premier, ha detto Verdini, a costruire il partito della nazione. Già si sono ubriacati i poveri di Forza Italia, figuratevi i poverini sciolti civici che così lo hanno salutato. Ma siamo piccoli, ma cresceremo, e allora virgola ce la vedremo. Chiusa parentesi, di fatto sei. Ma siamo piccoli, ma dateci delle. Continuano gli sms su ogni cosa, anche per te Pietrangelo, no all'indipendenza della Sicilia, siamo dice, a questo. Dice Germano, non sarà che Buttafuoco ha paura che la Sicilia debba mantenersi da sola? Dice, ti chiede Germano. Se la Sicilia ritorna a essere al centro del Mediterraneo, ben venga. Ma la vedo male. La vedi male situazione. Per adesso. Certo, non, tu immagini, intanto, Crocetta non è lo stupore del mondo. Intanto mi sembra che nel Golan stia capitando di tutto, no Mario? Sì. Bombardamenti. Non ho visto le ultime, sì, ma c'erano, Israele c'erano colpisce scontri. Le postazioni di Assad sul Golan in risposta ai lanci dei razzi. Lo twitta Maurizio Molinari della Stampa. Ritorno di un nostro caro amico. È tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione. Eccolo qua, il nostro amico Gordon Gekko, che ci introduce a, diciamo, l'hai appena citato, il Medio Oriente. Segnalo che l'Arabia Saudita ha fatto bancomat, cioè ha ritirato 73 miliardi di dollari dai suoi asset detenuti presso vari gestori per fare cassa e distribuirle all'interno del regno che ha una recessione da combattere. D'altronde, e questo vuol dire che la guerra del petrolio comincia a fare le sue vittime. Beh, morti e feriti, no? Come mi sembra molti, no? Molti. Il prezzo basso non è una benedizione, come pensa qualcuno, perché sta destabilizzando completamente quell'area. Destabilizza quell'area e non abbassa il prezzo della benzina. Tra l'altro. Quindi non si capisce questi soldi come mai non finiscono mai anche nelle tasche dei contribuenti. A 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, gli sms pubblicità. Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Vi presenta Mix 24. Ok, un bellissimo pezzo di David Bowie, si chiama Heroes, non a caso, ahimè, parliamo di guerra. La linea iraniana sulla Siria, Giovanni, a me pare molto chiara, non quella italiana. Comunque a San Rouhani il presidente dell'Iran all'ONU ha detto che la priorità è combattere il terrorismo e non Assad. Questa è una linea, secondo me. Noi non abbiamo ancora chiarito bene qual è la nostra, né Obama. Mi sembra anche la linea di Putin questa. Beh, direi proprio di sì. La presenza della Russia ormai è molto grande. Tieni presente che si sta aggregando anche la Cina a questa grande coalizione internazionale. E ci sono gli Stati Uniti riluttanti, io non riesco a... Possono solo seguire, mi sembra. Sarò limitato, ma io non riesco a capire perché a questo punto. Comunque Russia e Iran stanno facendo la partita in Medio Oriente, mi sembra. Certo, gli americani hanno avuto anche l'arroganza di dire che la Russia pretende di entrare nel Mediterraneo da 350 anni. Più Europa di Russia cosa c'è? Mi pare ovvio. Loro hanno 10.000 chilometri di distanza rispetto al Mediterraneo. Esatto. Bene, da oggi con il professor Roberto Bernabei noi commenteremo le più importanti notizie di medicina che appaiono sulle riviste top del mondo, selezionate e commentate. Medicina, le frontiere della ricerca. The Lancet del 25 luglio 2015. Il rischio di morte attribuibile alle alte e basse temperature. Uno studio fatto in 384 posti nel mondo. Professor Bernabei, perché è molto interessante questo studio? Ma l'estate è finita e facciamocene una ragione. Ed è stata un'estate molto calda. Allora viene bene questo articolo del Lancet perché ci racconta cosa succede alla nostra salute rispetto al caldo e rispetto al freddo. Cosa hanno fatto? Sono andati in 384 posti nel mondo, hanno misurato le temperature per periodi rilevanti e le hanno collegate con la mortalità di quelli che campavano in quel posto. E cosa è uscito fuori? È uscito fuori che il caldo del Sahara non fa tanto di più, di male voglio dire, rispetto a quello che è il caldo del Mediterraneo, quello che abbiamo avuto quest'estate. Paradossalmente, per ragioni che vedremo poi dopo, invece il grande freddo, i meno 50 della Siberia, fanno meno danno di quanto non faccia il freddo moderato tipico del nostro nord Italia. Ma la cosa più clamorosa, più significativa e interessante di questo studio è che si vede che il freddo ammazza molto più del caldo. Per capirci, su 100 morti, 95 avvengono in inverno e 5 in estate. E allora questo ha delle conseguenze su come ci dobbiamo comportare durante i mesi invernali rispetto al nostro stile di vita normale. Ma c'è anche una considerazione ultima e finale che ci fa pensare che hai visto mai che il riscaldamento globale, il global warming, che tanto preoccupa perché scioglie i ghiacci, innalza il livello del mare e quant'altro, che magari invece questo riscaldamento globale non allunghi ulteriormente questa aspettativa di vita che già oggi in questo paese è di 85 anni per una donna e di 80 anni per l'uomo. Ma e allora il consiglio per i nostri ascoltatori qual è? Ma forse avevano ragioni le nostre mamme che dicevano ci sei messo la maglia di lana, ma evidentemente, soprattutto visto il periodo in cui siamo, l'invito è quello a, per esempio, vaccinarsi, perché questo evita le malattie da raffreddamento tipiche provocate dall'influenza con tutte le conseguenze del caso, soprattutto nei vecchi. 800 24 00 24, il numero verde per chi vuole commentare anche queste notizie, 349 238 6666 l'SMS, e dopo il giornale radio racconteremo il giallo della storia di Giancarlo Siani. Stanno i cani e ci stanno i padroni. Tu lo puoi fare un cane o un padrone? Nessuno di tutti. Io voglio fare il giornalista. La criminalità, la corruzione, non si combattono soltanto con i carabinieri. Le persone per scegliere devono sapere, devono conoscere i fatti. Allora quello che un giornalista dovrebbe fare è questo, informare. Ecco, informare. La ricerca della verità a Giancarlo Siani è costata la vita. I killer portano sulle prime pagine della stampa italiana e internazionale la realtà di Napoli. Napoli e la Camorra, un intreccio che ancora oggi, come 30 anni fa, fa discutere. Non ho mai parlato di DNA, invece si può spiegare con la storia e con la sociologia. Io credo che le camorre siano un elemento costitutivo della storia e della sociologia di questa città e di questa regione, così come le mafie sono un elemento costitutivo della storia, della sociologia, dell'economia italiana. E prenderne consapevolezza, non negarlo, è il primo atto per combatterla. Ecco, la frase della Bindi, dottor Alessandro Barbano, direttore del Mattino, riporta la storia indietro di 30 anni? No, la frase della Bindi dimostra una grande ignoranza, perché anche correggendosi lei sbaglia, perché la camorra non solo non è costitutiva dell'antropologia, come era sembrato in un primo momento, ma non è costitutiva della storia. Ma la storia di Napoli è riducibile alla camorra come dato genetico? E che cos'era la rivoluzione del 799? Ma anche il ruolo che la camorra ha avuto nell'unità d'Italia e quindi nell'annessione è stato un mero accidente, perché è stato un patto scellerato con un prefetto Liborio Romano. Ma non è che la camorra ha avuto un ruolo genetico nell'identità meridionale e nella storia del Mezzogiorno. Dire questo significa essere non solo ignoranti, ma anche arrogante e supponente. Quindi purtroppo, la Bindi è ignorante, arrogante e supponente. Ma assolutamente, e cercando di correggere il primo passo l'ha peggiorata. L'ha peggiorato, perché ecco, direttore. Attribuirlo alla storia è ancora più grave. Non solo, c'è una conseguenza di questo elemento. Dica. Perché è chiaro che se esiste un dato genetico, diciamo camorristico, sarebbe come dire che la Germania ha Hitler nel suo DNA. Esiste quindi una latente sfiducia a concedere ai meridionali e agli uomini del Mezzogiorno la possibilità di essere protagonisti del loro riscatto. Ecco, direttore, questo è chiarissimo, mi sembra che più chiaro di così non si può essere. Ecco, cosa resta? Noi raccontiamo tra poco la storia di Giancarlo Siani. Cosa resta di Siani, di Giancarlo Siani, quel coraggioso giornalista, nel DNA del suo giornale del Mattino? Un grandissimo dolore. Chi era Siani? Non era un giornalista scomodo in mezzo a tanti giornalisti comodi, così come lo si vuole far passare trasformandolo in un'icona. Era un giornalista bravo, più bravo, che è più bravo degli altri, in mezzo a tanti altri giornalisti più o meno bravi. Bene. Che cercavano la verità. Dunque storie come quella di Siani ci costringono a pensare e a interrogarci. Dopo il giornale radio, qui a Mix 24, il giallo della storia della morte di Siani. You will find me when I choose.